Il coordinamento Lesbiche Romane presenta. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 219esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Eccoci di nuovo qui, non ci siamo sentite per un po' perché, come sapete da un paio di settimane, alterniamo il nostro orario e il nostro spazio del martedì con le compagne del collettivo Le Connettive. Ma come promesso siamo tornate puntuali al nostro appuntamento. Vi ricordiamo che questa trasmissione andrà in replica martedì 17 febbraio e che poi torneranno nuovamente le connettive in un alternarsi che speriamo vi sia gradito e che per noi rappresenta un'occasione di arricchimento, perché la pluralità delle voci secondo noi non può che essere questo. Il 27 gennaio scorso si è celebrato il giorno della memoria, cioè la commemorazione in onore delle vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, dell'olocausto, e in onore dei cosiddetti giusti, cioè di coloro che protessero i perseguitati anche a rischio della propria vita. Questa ricorrenza è stata istituita in Italia nel luglio del 2001 in adesione ad una proposta internazionale e ricorda il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz liberandone i pochi superstiti. Fra i moltissimi perseguitati del nazismo ci furono numerose lesbiche e omosessuali che purtroppo, troppo spesso, la storia dimentica e non cita. Stasera allora vi parleremo di questo, ma prima un po' di musica. Il canto dei deportati è un canto interessantissimo, anche questo è di aria molto bella, una bellissima melodia. È nato in Germania negli anni 30, nel campo di Dachau, veniva cantato in tedesco, erano prigionieri tedeschi, socialisti, omosessuali, ebrei, moltissimi ebrei, e questo canto piano piano incominciò a viaggiare per tutta Europa. Come vi dicevo, le canzoni viaggiano. Infatti lo cantiamo in quattro lingue, mi pare anche cinque: italiano, tedesco, francese, inglese, perché durante la guerra di Spagna lo cantarono e fu pubblicato, pensate, ironia della sorte, da un anarchico spagnolo che poi scomparì dopo averlo pubblicato, che si chiamava Bush. Fu ripreso e cantato nel campo delle donne di Ravensbrück. Insomma, è una specie di carta geografica dei campi nazisti in Europa. Thank you. Allora, quella che avete ascoltato adesso è il canto dei deportati, e questo canto è stato fatto dal coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Adesso andiamo a parlare dell'olocausto e dell'omosessualità. Nel codice penale tedesco, in vigore già con l'unificazione della Germania nel 1871, il tristemente noto paragrafo 175 perseguitava l'omosessualità maschile e stabiliva la perdita dei diritti civili. Un anno dopo la presa del potere da parte di Hitler, Hitler stesso si adoperò per l'inasprimento di questa norma, prevedendo la condanna ai lavori forzati sino a 10 anni e appunto la deportazione in quelli tristemente noti, i campi di concentramento. Nel 1936 venne costituito l'Ufficio Centrale per la lotta all'omosessualità e all'aborto. L'aborto, come l'omosessualità, limitava la crescita demografica della nazione e dunque era un ostacolo al cammino verso la razza ariana. I nazisti si accanirono prevalentemente contro gli omosessuali maschi, prendendo in considerazione solo in pochissimi casi isolati l'omosessualità femminile, e poi andremo a vedere perché. E infatti il lesbismo era considerato dalle autorità una minaccia o un considerato dalle autorità una minaccia o un sabotaggio sociosessuale dei fondamenti del Terzo Reich, perciò a patto che non dessero pubblico scandalo, le lesbiche non furono formalmente perseguitate. E badate bene che abbiamo scelto le parole non a caso, formalmente non furono perseguitate, poi vedremo successivamente in che termini invece subirono le peggiori angherie. Del resto, la condizione delle donne nella Germania pre-nazista non consentiva loro, ad esempio, di aderire a partiti e organizzazioni politiche. Per questo le donne si limitavano a frequentare i locali berlinesi senza esporsi palesemente a livello politico. Eppure, in alcuni di questi locali, come il Dorian Gray e il Flauto Magico, le lesbiche cominciarono ad organizzarsi e la reazione conservatrice non tardò ad arrivare. Gli spazi di libertà per le lesbiche si restrinsero. La censura si abbatté sulle pubblicazioni cosiddette immorali. La rivista Die Freundin, ad esempio, venne messa all'indice in base alla legge sulla protezione della gioventù dalle pubblicazioni oscene. Vi furono richieste in Parlamento di una legge che perseguisse esplicitamente il lesbismo, e la stampa cominciò a sostenere che il movimento per i diritti civili delle donne era un movimento di facciata per promuovere la corruzione dei costumi femminili in Germania. I nazisti erano convinti dell'inferiorità delle donne rispetto agli uomini e per certi versi si disinteressarono della cosa, ma questo non significa che essere lesbiche fosse consentito come stile di vita. A partire dal 1933 i luoghi di ritrovo vennero chiusi e si instaurò un clima di paura e di delazione. La polizia, quindi, incoraggiava le denunce anonime nei confronti delle lesbiche. Molte lesbiche, per timore della Gestapo, si trasferirono. Altre si sposarono con omosessuali maschi per ridurre la loro visibilità. Se anche l'omosessualità femminile non era considerata un reato esplicitamente vietato dalla legge, le lesbiche vennero ugualmente perseguitate, non in quanto tali, ma in quanto asociali. Così, ufficialmente, non vi furono arresti per lesbismo, ma per comportamenti personali contrari all'ideologia nazista. A tale proposito, vi diamo lettura della lettera del Ministro della Giustizia del Reich. Berlino, 18 giugno 1942. Il Ministro della Giustizia del Reich a Reichskommissar per i territori della Norvegia a Oslo. Soggetto: atti innaturali tra donne in risposta alla lettera del 27 maggio 1942. Sinora i risultati dei colloqui della Commissione Ufficiale per la Legge Criminale del Reich non prevedono di rendere punibili atti innaturali tra donne. Le principali ragioni sono le seguenti. L'attività omosessuale tra donne, ad eccezione delle prostitute, non è così diffusa come tra gli uomini e, dati i più diffusi tipi di relazioni sociali tra donne, è più facile sfuggire al controllo pubblico. Ne consegue che la maggiore difficoltà di individuare tali comportamenti comporterebbe pericoli di testimonianze e indagini infondate. Una delle principali ragioni per punire atti sessuali fra uomini, vale a dire la distorsione della vita pubblica a causa dello sviluppo di legami di dipendenza personale, non ha ragione di essere per le donne a causa del loro minore peso nella società e nel pubblico impiego. Infine, le donne che indulgono in relazioni sessuali innaturali non sono impedite del tutto come agenti procreativi, diversamente dagli omosessuali uomini, anche perché l'esperienza mostra che in seguito le donne tornano spesso a relazioni normali. Firmato dottor Schaffer. Allora, se si può un attimo fare una piccola interruzione, questo significa A, che le donne naturalmente non occupavano posti di rilievo, erano inferiori e quindi di che si doveva preoccupare di essere inferiori. In più, le lesbiche potevano procreare perché potevano essere violentate. Questo è chiaro? Nei campi di concentramento le lesbiche quindi non furono catalogate come omosessuali, ma come pervertite alla stregua delle prostitute. Questa distinzione era marcata dal fatto che per esse nei campi vi fu l'obbligo di indossare il triangolo nero, che era appunto il simbolo delle prostitute. Ma seppure non vi fu una persecuzione sfacciatamente esplicita da parte del regime, ci fu comunque una attenzione costante e particolare per le donne lesbiche. Anzi, il lesbismo era considerato un aggravante per la condizione delle detenute, come dimostra ad esempio il caso di Annie Sherman, di cui vi parleremo fra breve, ma prima sentiamo un altro pezzo musicale. Ich wandre durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat, bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möcht so gerne weitergehen, ich möcht so gerne weitergehen, ich möcht Il brano che avete ascoltato si intitola Ich wandre durch Theresienstadt, che significa una passeggiata a Theresienstadt, ed è stato composto da una deportata che volle a tutti i costi seguire il marito nei campi di concentramento insieme al figlio e morì appunto a Theresienstadt. Purtroppo, siccome è il bello della diretta, non mi trovo più l'appunto con il nome della musicista, prima o poi ve lo faremo sapere. Lo faremo magari nella replica. Allora, Continuiamo, come vi ha annunciato prima Rosina, a parlarvi del caso Sherman. Annie Sherman era nata il 19 febbraio del 1912 a Francoforte sul Meno, in Germania. Era di origine ebrea ed era la prima di tre figlie. Dopo il 1938 le donne ebree erano obbligate ad apporre sui propri documenti un secondo nome distintivo che per tutte doveva essere Sara. Ora, di che cosa fosse distintivo me lo dovrebbero spiegare, però insomma, vabbè. Annie, lesbica dichiarata, non si adeguò all'ordine di apporre il nome Sara sui documenti e continuò la sua vita, come sempre, frequentando i luoghi di ritrovo illegali delle lesbiche di Francoforte. Nel 1940 venne arrestata e deportata al campo di concentramento femminile di Ravensbrück, quindi non come ebrea, perché le ebree e gli ebrei andavano ad Auschwitz, mentre a Ravensbrück c'era un campo di concentramento completamente femminile, dove, tanto per capirci, a titolo informativo, lo ricordiamo, furono sterminate 92.000 donne su 110.000 che vi erano ospitate e che vi passarono negli anni. Comunque, sulla foto segnaletica che ritrae Annie, il funzionario nazista scrisse: Annie Sara Sherman, nata il 19 febbraio 1912 a Francoforte, non coniugata, commessa di negozio, lesbica licenziosa, frequentatrice di bar omosessuali, non ha adottato il nome Sara, apolide ebrea. Dopo due anni di campo di concentramento, Annie morì nelle camere a gas di Berneberg nel 1942, ancora una volta non ad Auschwitz. Il caso di Annie Sherman mostra tutta la difficoltà nel registrare e documentare la persecuzione delle lesbiche. Ufficialmente Annie era ebrea e questo sarebbe stato sufficiente per condannarla a morte in un campo. Tuttavia, le autorità tedesche sottolineano il suo essere lesbica come un ulteriore aggravante, segnale questo di come appunto l'attenzione e la vigilanza sull'omosessualità femminile fossero decise e costanti. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi sugli 87,9 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito che è www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta oppure sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi. Potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa che è lo 06 49 17 50 fino alla fine della nostra trasmissione, oppure mandare il solito e amatissimo trillino, oppure, come già sapete, potete mandarci un SMS al 338 41 46682. Sempre fino alla fine della diretta. Infine potete scriverci una mail al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it o telefonarci il giovedì sera al Centro Femminista Separatista al numero 06 6864 201. Come sempre gradiamo i trillini, quindi fatevi sentire e buon ascolto. Come abbiamo visto, quindi, le donne sospette di lesbismo non sono legalmente perseguite e mandate in campo di concentramento nella stessa misura degli uomini. Tuttavia, vi sono prove della loro presenza nei campi di concentramento sin dai primi anni del regime nazista e soprattutto esse sono già dal 1936 oggetto di programmi di rieducazione in centri psichiatrici, primo fra tutti all'Istituto di Ricerca Psicologica e di Psicoterapia a Berlino. La persecuzione delle lesbiche avviene di solito con motivi ufficiali diversi da quelli dell'omosessualità. Ad esempio sono perseguite appunto come ebree, come prigioniere politiche, come criminali comuni, soprattutto prostitute abbiamo detto, come asociali. Nei lager le lesbiche sono catalogate con le prostitute, nella categoria delle pervertite e non come omosessuali. Alcune sono costrette a lavorare nei bordelli dei lager. Pertanto è difficile valutare l'entità della loro persecuzione e del loro sterminio. Sembra tuttavia che alcune donne siano state deportate solo perché lesbiche comunque. E siccome abbiamo visto nei verbali di arresto di Annie Sherman c'è un riferimento al suo orientamento sessuale, ma la principale infrazione è l'essere ebrea e per di più non in regola con i documenti di identificazione, è diverso invece il caso di altre donne. Il caso ad esempio di Alice Mula e Margarita Rosenberg, che sono stati appunto documentati dalla studiosa Claudia Schopman, le quali sono state deportate il 10 novembre del 1940 a Ravensbrück proprio perché lesbiche. Lo attestano senza ombra di dubbio i documenti di immatricolazione del lager. Non potendo però essere inserite fra i prigionieri omosessuali per mancanza appunto di una disposizione specifica sulla omosessualità femminile, a loro venne assegnato il triangolo rosso delle prigioniere politiche. Anche per Elsa Conrad, un'altra delle pochissime lesbiche di cui si ha notizia, che fu deportata nel 1937 nel lager femminile di Moringen, la causa appunto del suo internamento fu proprio l'orientamento sessuale. E veniamo adesso a un altro campo di concentramento, quello di Uckermark, per ragazze e giovani donne. Anche di questo se ne sa pochissimo e sono stati soprattutto la forza e l'energia di gruppi di femministe e lesbiche a riportare alla luce notizie e a far incominciare anche gli scavi di questo campo. Il campo di concentramento di Uckermark fu realizzato come campo di recupero giovanile per minorenni di sesso femminile, cioè tra i 16 e i 21 anni. Fu costruito dalle detenute del vicino campo di Ravensbrück tra il 1941 e il 1942. Entrambi i campi erano sottoposti allo stesso comandante. La gestione era affidata alla polizia criminale. Nel giugno del 1942 vi furono recluse le prime 70 prigioniere. Dal 1945 vi furono imprigionate in totale circa 1200 tra ragazze e giovani donne. L'arresto delle giovani era permesso anche con azioni lampo e senza mandati di cattura, grazie ad una clausola sulla pericolosità dei soggetti in base al decreto sulla lotta preventiva al crimine. Questo decreto in realtà altro non era che il mezzo di controllo sulle vite e sui comportamenti dei tedeschi, in particolare delle donne, il cui ruolo era quello di riproduttrici. Ora, non per voler fare digressioni, ma non mi sembra che siamo tanto distanti oggi nell'attuale regime in Italia. Torniamo al campo di concentramento di Uckermark. Le ragioni degli arresti erano varie, ma si possono riassumere tutte sotto la definizione di trasgressione e mancato adattamento alla comunità popolare nazionalsocialista. Le prigioniere appartenevano a svariati gruppi, per esempio le Swing Kids, che era il movimento giovanile che si rifaceva alla musica swing, che in quegli anni era proibita, le Testimoni di Geova, giovani partigiane slovene e ragazze sinti. L'accusa di incuria sessuale era una giustificazione per la detenzione specificatamente femminile, poiché non si conosce alcun giovane di sesso maschile arrestato con la stessa accusa. Badate che nelle internazioni invece in Italia negli anni 60 e 70, inizi, ma comunque anni 60 in particolare, nelle internazioni nei manicomi, per le donne era sempre un comportamento sessuale non consono, quindi mi sembra che non siamo tanto distanti. I responsabili di Uckermark lavoravano insieme all'Istituto di Biologia Criminale, fondato nel 1937, allo scopo di combattere i nemici della comunità. Le ragazze furono divise e selezionate secondo i criteri appunto della biologia criminale da Robert Ritter ed Eva Giustine, in un sistema che doveva garantire il mantenimento della stabilità ereditaria del popolo tedesco e l'individuazione di tutte le combriccole criminali. Lo scopo era l'isolamento e l'annientamento pianificato di quella parte della società cosiddetta inferiore e asociale. Nel gennaio del 1945, 7 baracche del campo di Uckermark vennero separate dal resto degli edifici col filo spinato e con postazioni di guardia e utilizzate fino alla fine del 1945 come campo di sterminio. Qui furono sistematicamente assassinate dalle 5.000 alle 6.000 prigioniere. Vogliamo ricordare inoltre che nel campo di Ravensbrück vennero condotti esperimenti medici sulle donne che consistevano nel procurare, ad esempio, fratture degli arti inferiori, successivamente infettate per testare farmaci sperimentali studiati per i soldati al fronte. Le donne che sopravvivevano a queste torture allucinanti venivano chiamate conigliette a causa dell'andatura provocata dagli esperimenti. Di questo campo, ancora oggi si sa pochissimo, e ci riferiamo ovviamente a quello di Uckermark, e solo grazie al lavoro di poche femministe lesbiche, come abbiamo detto prima, tedesche, di poche femministe lesbiche tedesche, se ne ha notizia, sia pur parziale. Ricordo il freddo massacrante, i timidi lamenti della mia gente, ammassati, stipati dentro un treno merci, due giorni e due notti senza dormire. Ben presto avremmo smesso di parlare, ben presto. Ricordo il freddo massacrante, il giorno che perdemmo per sempre i nostri figli, affamati, assetati, privati dei nostri vestiti, ed era come vetro. E ben presto avremmo smesso di parlare, ben presto avremmo smesso di capire. Avrete riconosciuto senz'altro Carmen Consoli, la canzone si chiama Un sorso in più. E, come abbiamo già detto, le lesbiche non erano rappresentate da una vera e propria categoria all'interno dei lager. Dal punto di vista numerico, soltanto poche venivano internate ufficialmente come lesbiche, ma non per questo, abbiamo detto, non soffrivano della minaccia e dell'ostilità nazista all'interno dei campi. La loro sofferenza quindi non era minore rispetto a quella degli omosessuali maschi, semplicemente assumeva una forma diversa. Per finire il nostro lungo discorso, vogliamo rivelare alcuni aspetti anche paradossali per quello che riguarda la storia in genere degli omosessuali tedeschi internati nei campi. Alla fine della guerra, infatti, tutti i prigionieri con il triangolo rosa non riacquistarono la libertà come invece gli altri prigionieri ad esempio politici o i criminali comuni e via dicendo. Con una discriminazione identica, uguale, gli alleati li considerarono appunto criminali comuni e non quello che realmente erano, e cioè vittime della persecuzione nazista. Quindi finirono in carcere anche una volta usciti dai campi in base alle condanne che li avevano portati in prigione prima e nei campi dopo. E in molti casi il periodo di detenzione trascorso nei lager non venne appunto calcolato ai termini della pena scontata, ma nel computo si fece appunto riferimento soltanto al periodo che loro avevano trascorso in cella prima di essere portati nei campi. E, a riprova dello stigma sociale fortissimo nei confronti dei gay, vi raccontiamo la storia emblematica del matematico tedesco Turing. Turing era appunto Alan Turing, era un importante matematico tedesco che con i suoi studi permise di decifrare i codici della macchina Enigma. La macchina Enigma era il macchinario straordinario con il quale i tedeschi criptavano le loro comunicazioni. Attraverso gli studi di Alan Turing queste comunicazioni vennero criptate, lui scoprì il codice e quindi contribuì largamente alla sconfitta del nazismo. 12 anni dopo la fine della guerra, Turing denunciò un furto avvenuto in casa sua. Erano stati due ladruncoli, si erano introdotti in casa sua. Durante il processo a questi due ladri si scoprì che uno dei due aveva in precedenza avuto un rapporto omosessuale con Turing stesso. E quindi Turing venne processato per atti osceni e per evitare il carcere fu costretto ad accettare un trattamento ormonale. Questo trattamento lo rese impotente e la cura, appunto, tra virgolette, che gli riservarono lo portò alla rovina. Demoralizzato e depresso, infatti, Turing si tolse la vita e fece come Biancaneve, morse una mela avvelenata, ed era il 7 giugno del 1954. Nel referto medico venne scritto causa del decesso cianuro di potassio autosomministrato in un momento di squilibrio mentale. Allora, il tristemente famoso paragrafo 175 di cui parlavamo ad inizio trasmissione restò in vigore nel codice penale della Repubblica Federale Tedesca fino al 1969, cioè 40 anni fa. E questo per quanto riguarda la Germania. Per quanto invece riguarda l'Italia, la situazione delle persone omosessuali era diversa. Infatti in Italia gli omosessuali non ebbero la stessa tragica sorte dei gay tedeschi. Innanzitutto perché le norme anti-omosessuali, incluse nell'elaborazione del codice Rocco, furono stralciate durante la stesura del medesimo codice. Non furono stralciate perché il nostro fosse un paese straordinariamente tollerante, semplicemente il regime affermava che nell'Italia fascista gli omosessuali non potevano esistere, o quando anche esistessero erano talmente pochi che non si poteva giustificare l'esistenza di una legge. E quindi la massima pena che gli omosessuali italiani potevano scontare era il confino, non era ovviamente quello che Berlusconi definisce una vacanza al mare, era una restrizione della libertà gravissima, non era per fortuna il campo di concentramento o il campo di sterminio. E qui direi una chicca finale, l'unico caso di lesbica mandata al confino che si conosca si deve non al fatto che la donna fosse stata riconosciuta appunto come lesbica e quindi sovvertitrice dell'ordine sociale, non in quel senso, ma semplicemente la donna era sovversiva perché si era resa responsabile di abbandono del tetto coniugale. Questo la dice molto lunga su quello che le donne vivevano in quegli anni anche nel nostro paese. Comunque questa trasmissione che noi abbiamo cercato insomma di fare per anche se successivamente alla giornata della memoria, ma per la giornata della memoria, e non è stato un caso che per noi sia andata in onda non il giorno stesso, ma che sia slittata, è perché noi abbiamo in qualche maniera voluto portare l'attenzione sull'olocausto delle donne, in particolare in quel periodo storico durante il nazismo e il fascismo, ma quello che noi riteniamo, quello che noi pensiamo è che si debba parlare di olocausto delle donne sempre dalla storia dell'umanità in poi. Oggi assistiamo matematica, scientifica eliminazione delle donne, certo. Eliminazione fisica come la morte, gli stupri e via discorrendo, ma in forme diverse, con modalità diverse, ma che hanno un unico comune denominatore ed in tutto il mondo. E questo è l'olocausto perenne. Di questo dovremmo incominciare a parlare, così come si parla oggi di femminicidi, ma si deve parlare anche di olocausto perché è scientificamente organizzato dal potere patriarcale. Sì, se posso aggiungere un'ulteriore cosa, si deve parlare di olocausto, si deve parlare anche di conservazione della memoria. Nella preparazione di questa trasmissione io, documentandomi, insomma, per documentazione, ho letto un bellissimo libro curato da Daniela Padoan, che si chiama Come una rana d'inverno. Come una rana d'inverno è un verso tratto dal famoso comando di Primo Levi, se questo è un uomo, e è la raccolta di tre testimonianze di tre donne che sono sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, tre donne italiane, una è Liliana Segre, l'altra i nomi non me li ricordo, scusate, purtroppo l'età avanza anche per me. E proprio Liliana Segre parlava appunto di conservazione della memoria. La cosa che lei aveva notato ritornando dal campo era innanzitutto questo grandissimo desiderio di parlare. In realtà le persone in quel momento non avevano voglia di sentire i racconti dei sopravvissuti. Era un momento molto particolare, molto difficile, tutti volevano guardare oltre. Quindi per un certo periodo lei non ha parlato, si è tenuta per sé la sua testimonianza. E quando ha cominciato a parlare anche fra deportati, anche fra gli ex deportati, fra gli uomini sopravvissuti, lei ha notato che le testimonianze delle donne comunque andavano in secondo piano, e cioè quando lei diceva, faccio un esempio, ci facevano portare delle carriole di sabbia da un punto all'altro del campo, oppure dei massi da un punto all'altro, semplicemente così, perché in quel momento sembrava loro opportuno fare questa cosa, quando noi raccontavamo agli altri sopravvissuti, ci guardavano come se noi avessimo detto un'eresia, diceva vabbè, ma non è possibile questo, figurate se vi hanno fatto fare questa cosa. Oppure quando loro parlavano della cattiveria dei capò, della disumanità dei capi nazisti, gli uomini dicevano sì, però da noi era peggio, il nostro capo era peggiore, il nostro superiore era più cattivo, eccetera eccetera. Quindi non a caso le donne hanno raccontato meno degli uomini, ma quello che hanno raccontato comunque non ha avuto grande diffusione, tant'è che raccontava sempre Liliana Segre, per trovare una casa editrice, quindi disposta a pubblicare una testimonianza femminile, ci voleva molto più. insomma, quasi che la voce delle donne in qualche misura pesasse meno. È la stessa cosa che succede oggi. No, è la stessa cosa, cioè, se le donne sono inferiori, come dicevano certamente. I nazisti, che possono soffrire, soffrono di meno, ecco, è come quando si tratta male gli animali, la sofferenza animale ha meno importanza. Quindi noi crediamo che si debba continuare un approfondimento su questo argomento, non semplicemente nel periodo nazista, ma cercando gli agganci alla realtà odierna e cercando gli agganci anche nelle altre situazioni, nelle altre realtà. Così come abbiamo ricordato in altre occasioni, in altre trasmissioni, che tutte le volte che le donne hanno espresso con la loro vita autonomia, il potere poi le ha cancellate anche dalla storia. E questo è l'esempio, per esempio, delle beghine, delle comunità delle beghine nel periodo medievale, no? E potremmo poi riparlarne ancora. Ora, infatti noi anche come gruppo abbiamo la rubrica Donne e Storia, proprio per mantenere viva tutto quello che è stata la storia e la rilevanza che la storia delle donne ha avuto su questa nostra comunità, no? Adesso ascoltiamo un CD, un brano musicale. Okay. Sì, se possiamo dire qual è dalla splendida voce di Billie Holiday, una canzone alla quale io personalmente sono molto affezionata. Non tratta di questo periodo storico, ma tratta di un altro periodo storico di disumanità, di grande disumanità. Il titolo è Strange Fruit. Thank you. gli appuntamenti. Allora, il primo appuntamento di cui vogliamo parlare è estremamente prossimo. Il mio compleanno? No, non è il tuo compleanno, perché peraltro non è manco prossimo. Il primo appuntamento di cui vi vogliamo parlare e vi vogliamo invitare a partecipare numerose è questo sabato alle ore 14:30, concentramento in Piazza della Repubblica, se preferite Piazza Esedra, alle 14:30, l'ho già detto, per la manifestazione grandissima di No VAT. Giusto. E quindi? Interveniamo numerose. Tutte in piazza? Tutte in piazza, ma anche perché e soprattutto perché ci sarà lo spezzone lesbico. Vai! Lo spezzone lesbico separatista all'interno della grande manifestazione Novat. Noi crediamo che, penso che abbiate tutte quante letto l'invito, no, a questa manifestazione. Ovviamente l'autodeterminazione, come al solito, campeggia ed è una delle più importanti parole d'ordine. L'antifascismo è un'altra parola d'ordine fortissima, che contraddistingue questa manifestazione. La laicità, di cui c'è tanto bisogno, di cui c'è tanto bisogno ultimamente, vero? Ma ultimamente da tanto tempo. E poi naturalmente ci sono le recrudescenze statali e vaticane. Ce l'abbiamo sotto gli occhi proprio in questi che giorni, ce l'abbiamo però sotto gli occhi, non vogliamo parlare di niente, non vogliamo fare nessun commento in questo momento, perché veramente siamo la parola indignata mi fa schifo, però veramente siamo indignate per tutti gli accadimenti ultimi, e crediamo che riconfermare e manifestare per la laicità dello Stato, per la laicità come diritto, e quindi il poter vivere in uno stato non confessionale, credo che sia un diritto da rivendicare, esatto, da rivendicare, da affermare, eccetera. E vogliamo ricordare a questo proposito che la Chiesa ha una serie di vantaggi e una serie di privilegi, più che vantaggi, come per esempio non pagare l'ICI, come per esempio non pagare la CEA. Noi gli abitanti di Roma, le abitanti e gli abitanti di Roma paghiamo la luce, l'acqua del Vaticano, di tutta città del Vaticano. Loro infatti hanno l'acqua santa, però la benediamo noi, la santifichiamo noi. Per questo ci basta tanto, perché è santa. E quindi le scuole con i finanziamenti, non alle scuole pubbliche ma alle scuole private, quelle cattoliche, quelle della Chiesa, quelle vaticane, e via discorrendo. Ci hanno messo quant'è? Mezz'ora per levare quel decreto che hanno. È durato 12 ore. Ecco. Il famoso finanziamento che era scomparso, ecco, per le scuole cattoliche, che è stato immediatamente ripristinato, nonostante ci fosse quella gran baraonda rispetto alla scuola pubblica, al decreto sull'università, eccetera, eccetera. Mentre il popolo laico è stato bastonato, certo, ovviamente. La pantofola papalina ha inguattato tutto quanto. E sappiamo invece che per quello che riguarda tutte il finanziamento per a favore delle donne contro la violenza, certo, i famosi 20 milioni destinati al Ministero delle Pari Opportunità per i centri antiviolenza sono invece scomparsi, non sono stati riconfermati per e non sono riapparsi, perché ovviamente si preferisce finanziare la Chiesa a tutti i livelli. Infatti quando si dice vi hanno tolto l'ICI, cioè l'hanno tolto pure a loro, questa, capito? No, loro non ce l'avevano già, l'hanno tolto proprio, l'hanno tolto a loro, e poi l'hanno tolto a noi per darlo a loro. Lasciamo perdere tutto il resto. Quindi allora vi ricordiamo sabato 14, invece di andare a cena a festeggiare San Valentino e Santa Valentina, venite, perché è un modo per festeggiare l'amore per la laicità e l'autodeterminazione e l'antifascismo. E l'antifascismo, naturalmente. Venite numerose allo spezzone lesbo-femminista nella grande manifestazione No VAT, meno Vaticano, più laicità. Venite copiose e copione. Come si dice. E il percorso sarà un percorso assolutamente inedito, quello di tutte le manifestazioni, da Piazza della Repubblica. Ci divertiremo un mondo e staremo tutte quante insieme appassionatamente, va bene? E allora un'ultima cosa, dal concentramento di Piazza Esedra passiamo ad un altro campo lesbico. Questa volta purtroppo questa sera i termini sono un po' strani. Sì, siamo campo... dai campi di concentramento, dal concentramento di Piazza Esedra a questo campo lesbico di Agape, che si terrà dal 9 al 13 aprile del 2009, per essere lesbica, divertente, resistente, creativa e gioiosa. Quindi le lesbiche in gioco, loro si presentano così: apri il giornale al mattino e ti viene la nausea? Sali in macchina e non trovi più il coraggio per accendere la radio? Scarichi la posta e ti metti le mani nei capelli? Hai pensato almeno una volta negli ultimi 2 anni di cambiare cittadinanza? Io sì, di andare in una capitale straniera, sì. Città del Vaticano. Torni a casa e anche il tuo pesce rosso è diventato nero? Ti vorresti ricordare di essere una lesbica divertente, resistente, creativa e gioiosa? I giochi non sono tutti fatti. Quindi 4 giorni per trovare, scoprire e vivere insieme forme e pratiche gioiose e giocose di condivisione per fare politica e resistere. Quindi se vi va, dal 9 aprile al 13 aprile potete partecipare al campo lesbico. Per avere le informazioni il sito è www.agapecentroecumenico.org. E oppure potete telefonare al 3901 21 80 7514. A questo punto io direi che mandiamo l'ultima canzone e poi ci salutiamo. Okay. Sì, e ci salutiamo e ci vediamo in piazza naturalmente sabato 14 alle ore 14:30, tutte alla manifestazione Novat, più laicità e meno Vaticano. What you gonna do when you feel the fears inside?